Ecco, direi che possiamo iniziare. Chiediamo anche siamo di nuovo qui con una serata dedicata alla storia. È un po' un leitmotiv che ci portiamo avanti da quest'autunno. L'abbiamo iniziato con una bellissima escursione attraverso la città che ha avuto un grande successo, e quindi colgo l'occasione per rinnovare anche a Francesca Brunet la richiesta, se è possibile ripeterla, perché ci stanno arrivando tante richieste. Sì, quindi se col favore della primavera, ecco, clima mite, giornate un po' più lunghe, ecco, abbiamo un obiettivo, va bene? Ecco, è quello di ripetere questa esperienza condivisa con le persone, che è stato molto anche interessante. Poi sicuramente passeggiare e scegliere quindi di parlare camminando ci riporta indietro a un vecchio stile che risulta ancora vincente per comunicare e riflettere, vero? Benissimo, allora intanto vi saluto e ringrazio di essere qui con noi di nuovo al nostro appuntamento dedicato, cioè innanzitutto in collaborazione con il Centro di Competenza di Storia Regionale dell'Università di Bolzano, che è rappresentato qui da Francesca Brunet, che è l'anima di questa iniziativa e che ringrazio ancora per la collaborazione. È un'iniziativa che è voluta anche per l'aggiornamento degli insegnanti, per cui è stato anche bello vedere la partecipazione anche nelle volte precedenti degli insegnanti. E questa sera abbiamo con noi ospite la professoressa Paola Trevisan, che è un caso di omonimia. Ci siamo divertite tantissimo, ma i Trevisan sono tanti, vero? Ecco, e sono distribuiti ovunque e soprattutto anche sulle navi di Marco Polo erano numerosi, mi risulta, ecco. Quindi insomma siamo andati ovunque, anche in Cina. E mi fa piacere incontrare quindi questa nostra ospite, la professoressa, che lavora, studia e insegna all'Università di Parigi e che questa sera parlerà della persecuzione dei Rom e dei Sinti nell'Italia fascista. Ecco, io vi ringrazio perché sono dei temi delicatissimi che ci piace poter affrontare nella nostra biblioteca, in questa circostanza, in questa occasione, e soprattutto anche approfondire i temi con la bibliografia che mettiamo a disposizione. Un altro appuntamento di carattere storico e l'ultimo per questo primo, diciamo, semestre del 2023-2024 sarà l'11 dicembre con Noi e le storie e la conferenza Il valore e il governo della moneta, l'inflazione, ieri e oggi, con Andrea Bonoldi, professore dell'Università di Trento. Quindi il prossimo appuntamento sarà l'11 di dicembre, sempre qui e sempre alla stessa ora. E poi uno invece il 6 dicembre, che è il nostro gruppo di lettura che continua ad andare avanti, e ci troveremo mercoledì alle 17 con il nostro gruppo di lettura. Chi ha piacere di frequentare questa modalità diversa di leggere, è un gruppo che si intitola Localmente e di solito si occupa di narrativa del territorio. Per ulteriori informazioni basta telefonare alla biblioteca. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una bellissima serata. Grazie. Grazie. Ringrazio la direttrice Valeria Trevisan per questa sempre gentilissima introduzione, per l'ospitalità, e ringrazio anche Patrick Urru per l'ottima coorganizzazione di questo settimo e penultimo appuntamento di un ciclo di conferenze appunto organizzato dal Centro di Competenza Storia Regionale della Libera Università di Bolzano, dal titolo, come vediamo, Storie di mobilità, marginalità, repressione tra passato e presente, cinema ed arte. Ora io vedo diversi volti familiari, diversi di voi hanno assistito ad alcune delle primi sei appuntamenti. Per chi invece non conoscesse questo ciclo di iniziative, due parole, due di numero sul contesto in cui è inclusa la conferenza di oggi. Si tratta di una serie di appuntamenti, conferenze, ma anche iniziative di altro genere, quindi serate cinematografiche o la visita guidata che citava prima Valeria Trevisan. un ciclo appunto che si avvale della collaborazione di esperti ed esperte di varie materie, storia ma anche sociologia, antropologia, storia dell'arte, e attraverso le loro competenze vuole proporre alcuni affondi, quindi da varie prospettive diverse, su diverse storie. Mi piace sottolineare il fatto che non a caso ho scelto il plurale, no, per il titolo di queste iniziative: storie di persone mobili, di persone marginali e marginalizzate, storie di repressione, di ingiustizie, di disuguaglianze sociali. Sono particolarmente grata alla relatrice di oggi, Paola Trevisan, che peraltro sarà con noi anche la prossima settimana per l'ultimo appuntamento del ciclo di conferenze. Ora tornerò alla fine vi ricorderò alla fine l'ultimo appuntamento di lunedì prossimo. Le sono grata per essere qui, per aver generosamente accettato il mio invito a venire a Bolzano per condividere con noi le sue ricerche, per avermi anche dato quindi la possibilità di conoscerla di persona dopo averla conosciuta attraverso i suoi scritti, ma le sono grata anche per le sue importantissime ricerche che vanno a colmare una vera e propria lacuna storiografica. Paola Trevisan, ve la presento brevemente, si occupa da anni di antropologia e storia dei gruppi romani in Italia, ha collaborato a diversi progetti di ricerca nazionale e internazionali e con vari istituti di ricerca, tra cui l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. I progetti di cui si è occupata vertono specialmente sulla persecuzione dei Rom e dei Sinti durante il fascismo, che è il tema di cui appunto ci parlerà oggi, e fra le sue pubblicazioni, fra le sue molte pubblicazioni, ricordo almeno le due monografie Storie e vite di Sinti dell'Emilia e Etnografia di un libro, Scritture politiche parentela di una comunità di Sinti. In collaborazione con Elisabeth Tauber ha poi curato un numero della prestigiosa rivista La Ricerca Folclorica, proprio sul dialogo, diciamo, tra le nostre discipline, quindi tra archivio e etnografia, tra ricerca storica e ricerca antropologica. La sua ultima vera e propria fatica, diciamo, è una monografia in uscita, uscirà nei prossimi mesi, in gennaio se non erro, quindi diciamo non l'abbiamo intercettata per un soffio, però qui c'è una scheda di presentazione che è a vostra disposizione, il cui titolo coincide, se non erro, con la relazione di oggi, La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell'Italia fascista. Ti lascio subito la parola e grazie ancora. Avevo anche un altro. Ah, sì. Allora, vediamo. Non vedo. Allora, prima di tutto. Funziona? Sì. Prima di tutto sono contenta di essere qui, quindi ringrazio tutti i presenti. Sono contenta di essere qui anche perché. E non è la prima volta che vengo a Bolzano, ho avuto la fortuna di conoscere alcune famiglie sinte qui a Bolzano e anche l'Università di Bolzano ho collaborato ad un progetto e quindi per un anno e mezzo ho avuto un contratto di ricerca qui e insomma ho pensato che fosse giusto, fosse una cosa importante venire anche a restituire in questo territorio qualcosa che il territorio mi aveva dato, insomma, ecco. E quindi adesso comincio, spero di essere comunque, sì, sono un po' tesa, ma sono un po' insomma così. Spero di poter mostrarvi effettivamente il tipo di lavoro che ho fatto in questi anni. E dunque, allora, vediamo. E il titolo, come ha già detto Francesca, prima di tutto, io voglio ringraziare molto Francesca Brunet per la sua incredibile capacità organizzativa, lo stare attenta a tutti i particolari, a tutte le cose, quindi è stato veramente un piacere incontrarla anche al Centro di Competenza Regionale, di Storia Regionale e all'Università di Bolzano. E questo titolo, che poi corrisponde anche al libro in uscita, In effetti possiamo dire, ritengo che sia il primo studio complessivo. Non è il primo studio in assoluto, ovviamente, ci sono stati altri ricercatori che hanno cominciato a fare questo tipo di ricerca, però spero che possa dare effettivamente una visione complessiva e articolata di quello che è stata la persecuzione dei Rom e dei Sinti durante il periodo fascista. Devo dire che nel presentarmi voglio anche aggiungere una cosa, allora, che poi sempre quando parlo di storia e di un libro storico preferisco dire. Allora, la mia formazione in realtà, io non sono nata come storica a livello accademico, ho studiato antropologia, quindi sono un'antropologa, sono un'etnografa in particolare. E proprio incontrando le comunità sinte, prima dell'Alto Adige, in realtà in Emilia-Romagna, in Emilia in particolare a Reggio Emilia, quindi incontrando le persone di queste comunità, ho avuto da loro la richiesta di aiutarli a trovare i documenti che potessero provare quello che a loro avevano subito durante il fascismo. E questa mi sembrò una richiesta interessante anche. Mi ha colpito perché loro mi dicevano i luoghi, mi dicevano anche il periodo, però io non trovavo niente nei libri di storia su questo luogo. Questo luogo esiste, è un paesino dell'Appennino modenese, si chiama Prignano sulla Secchia. E da questa discrepanza, da questo vuoto fra le memorie dei Sinti che io conoscevo e quello che mi metteva a disposizione la letteratura storica su questo periodo, insomma, questo vuoto mi ha interrogato e quindi, diciamo, con una certa fatica, devo dire, non è stato facile, ho iniziato ad andare in archivio, quindi ho passato, sono diventata anche altro da me, da quello che ero all'inizio. È stato necessario farlo, è stato difficile, però mi ha dato anche una grande soddisfazione. Devo dire che nelle mie ricerche d'archivio, di cui parlerò, la mia precedente esperienza etnografica però è sempre stata fondamentale, cioè ritengo che mi abbia dato anche la possibilità di leggere in maniera diversa, un pochino diversa, i documenti. Però magari su questo parleremo se ci saranno delle domande, sotto questa è più una cosa metodologica. Dunque, questo vuoto, questa mancanza o questi pochi articoli usciti fino ad ora su questo argomento, qual è il motivo? Quindi la prima cosa che voglio sottoporvi come, insomma, argomento, prima di passare ai dati cosiddetti, è proprio questa mancanza di interesse per questo argomento. E praticamente metto qui alcune considerazioni che possono aiutarci, diciamo, nel capire questo vuoto e perché è importante riempirlo. Prima di tutto io penso che veramente la ricerca su questo argomento sia stata, la mancanza o il ritardo nelle ricerche su questo argomento sia da collegare a quello che viene definito antiziganismo, cioè sarebbe comunque un'attitudine negativa verso questa parte della popolazione, non solo in Italia ovviamente, e questa attitudine negativa costruita su pregiudizi che fa sì che non si possa quasi immaginare che Rom e Sinti siano state vittime, come altra parte della popolazione italiana, del fascismo. Quindi c'è proprio un problema di immagine, bisogna un po' cambiare la prospettiva per poter pensare che questa ricerca ha senso farla e bisogna iniziare. Quindi un antiziganismo diffuso e, devo dire, anche un paragone improprio, ci tengo a sottolinearlo, con quello che è stato il genocidio dei Rom e dei Sinti nel Reich e anche nei territori conquistati a est. Quindi il fatto che si conosca di più sulla tragedia avvenuta in quei paesi ha fatto un po' da copertura, diciamo, a quello che era successo in Italia, per motivi che poi andremo a vedere, perché il paragone è sempre molto interessante, ma il paragone lo devo saper fare, cioè su che cosa faccio il paragone. Se lo faccio sul numero dei morti, e io non sono d'accordo su questo tipo di paragone, non vado molto avanti, diciamo, mi fermo troppo presto. Invece quello che mi interessa è andare a paragonare come si è strutturata la persecuzione, quali forme diverse ha avuto, quali particolarità ha avuto in un territorio europeo piuttosto che un altro, e anche all'interno dell'Italia, fra un nord Italia dove erano presenti soprattutto sinti che portavano avanti, che vivevano molto spesso, conducevano una vita itinerante, e il sud Italia dove invece era presente una popolazione rom già stabile, non del tutto, ma insomma già molto più più legata, molti di loro avevano già la residenza, quindi avevano uno stile di vita molto diverso, molto più simile alla restante popolazione gagge, quindi alla fine sono partita proprio da questo, cioè non voglio fare un paragone sui numeri, ok? Voglio vedere i singoli contesti, come nei singoli contesti è stata sviluppata le misure persecutorie. E, come vedete, l'antiziganismo è ripreso poi in questa slide. Quando io dico questo è un po' una riflessione antropologica, quando l'antiziganismo diventa senso comune non me ne accorgo neanche più. Questo è un termine molto usato in antropologia, il senso comune, cioè il senso comune vuol dire io agisco, penso e faccio delle cose, ma non percepisco più che ho dentro di me un'attitudine negativa verso queste persone. Posso anche essere convinta del contrario, ma vanno avanti comunque una serie di pregiudizi, e questo influenza anche la ricerca, tutti i tipi di ricerca, anche la ricerca storica ovviamente. Vabbè, questo è il libro che uscirà a gennaio. E quindi voglio dire due parole su come ho impostato la ricerca, poi vi mostrerò solo una parte dei risultati ovviamente, perché la conferenza ha insomma un taglio più specifico. Beh, prima di tutto io sono partita proprio da quello che vi dicevo prima, cioè dalla differenza fra gruppi e reti familiari, rom e sinti, nelle diverse parti d'Italia, perché penso che questo sia... e questo è il contributo dell'antropologia e dell'etnografia, quindi basandomi sulla mia esperienza ma sugli scritti di tanti antropologi ho cercato di far vedere quanto dietro questa etichetta fra virgolette zingari, che io continuo ad usare perché sono i documenti che usano questo termine, quindi non potrei usarne un'altra, ma dietro questa etichetta c'erano realtà estremamente diverse, e noi in genere non immaginiamo quanto diverse possano essere, e quindi questo mi serve per capire cosa poi effettivamente è successo. E poi ho analizzato anche che cosa veniva pubblicato su Rom e Sinti dal periodo liberale fino al periodo fascista, quindi c'è una parte di questo libro che analizza insomma gli scritti principali su di loro, perché mi interessava far emergere l'immaginario su di loro, cioè che cosa la società pensava, come produceva conoscenze su di loro, come l'istituzione li individuava, li pensava, cioè che cosa, qual era il senso comune o anche il senso, cioè, o anche la produzione intellettuale di un certo livello su di loro. Quindi c'è questa parte di cui ovviamente non parlerò. Sai Francesca, però io non riesco a leggere tutto, questa è una cosa che non so, perché se faccio così cambio la slide, scusate. Scusate la mia incapacità tecnologica, quindi non riuscivo a fare una cosa molto semplice. No, è comodissimo, sono io. Quindi poi ho analizzato, e questo invece di questo vi parlerò un po' più nello specifico, come emerge la categoria fra virgolette zingari, cioè quando e come si comincia a parlare di loro, se di quelli stranieri, se di quelli italiani, in che modo. E questo perché, questo sì che è interessante come paragone con altri paesi europei, un po' ovunque nell'Europa occidentale c'è questo discorso della di separare Zingari dal mondo del vagabondaggio, eh? Quindi questa categoria ampia, oziosi e vagabondi, a un certo momento, prima sia del fascismo che del nazionalsocialismo, ci sono una serie di studiosi e succedono una serie di cose per cui si cerca di differenziarli, ok? Cosa distingue gli uni dagli altri, perché hanno delle cose in comune, ma non tutto è comune. E farò vedere cosa avviene nell'Italia, però nell'Italia liberale, ovviamente, sotto questo punto di vista, che è un po' diverso da quello che avviene nel resto d'Europa. E infine, più arrivando al periodo fascista, proprio quali sono le misure di polizia, quindi quali sono le misure persecutorie, le circolari e tutto quello che succede. E fino alla Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente, dove tutte le misure persecutorie, anche quelle già in essere prima, raggiungono il massimo della loro, come dire, applicazione. Questo è comune in tutti i paesi, in tutti i paesi europei. Infine, nel libro, ma qui non ne parlerò, ho un capitolo è anche dedicato al dopoguerra, cioè a che cosa succede subito dopo ai Rom e Sinti, quando in Italia c'è la Repubblica e quindi usciamo dalla dittatura. Allora, un veloce excursus, qui possiamo vedere che allora, l'unità, il processo di unificazione si conclude nel 1871 e subito dopo, quindi già nel 1872, ci sono le prime circolari del Ministero degli Interni che vietano l'ingresso di, sempre fra virgolette, zingari stranieri. Sono replicate varie volte, quasi tutte uguali per tutto il periodo liberale, e di fatto mettono in evidenza che questa categoria di persone pensate come stranieri, quindi manca la parte italiana degli zingari, non possono entrare, quindi anche se hanno documenti, anche se hanno tutta una serie di cose che venivano richieste agli altri migranti, perché li dobbiamo considerare anche loro come migranti, cioè si spostavano ovviamente per cercare migliore condizioni di vita, però per loro non era possibile entrare. Se entravano, perché poi di fatto riuscivano anche a entrare, venivano espulsi, e attenzione che venivano espulsi quasi sempre senza neanche l'ordine di espulsione, eh? Per loro, ma anche per alcuni girovaghi questo succedeva, abbiamo tanta documentazione, venivano semplicemente accompagnati di nascosto alla frontiera e venivano sbattuti dall'altra parte, sperando che dall'altra parte le guardie degli altri paesi non li intercettassero subito, E quindi già si configura questo tipo di situazione. Cosa succede? Allora, la cosa particolare è proprio questa. All'inizio i governi liberali non parlano esplicitamente, non fanno circolari solo per gli zingari italiani, continuano a replicare questa cosa degli zingari stranieri. Tanto che durante uno dei governi Giolitti, 1909, l'Italia è invitata a una conferenza dalla Svizzera, una conferenza dove invita diversi paesi europei, perché si volevano mettere d'accordo su che cosa fare con tutti questi Rom e Sinti che passavano la frontiera da una parte all'altra, venivano espulsi, eccetera, eccetera. E Giolitti risponde a questa richiesta della Svizzera in una maniera emblematica. Questa è già stata pubblicata da alcuni studiosi. Cioè dice, ma no, noi non andiamo a fare questa conferenza perché noi italiani, lui intendeva ovviamente, noi non abbiamo zingari veri e propri, noi abbiamo alcune centinaia di famiglie di saltimbanchi girovaghi. E dentro questo saltimbanchi girovaghi, adesso la letteratura etnografica dice, certo, erano Sinti, ok, però a livello di istituzionale si preferisce lasciare molto nel vago chi siano queste persone, non perché si voleva bene a queste persone ovviamente, ma perché agendo in questo modo e quindi mettendoli in una categoria collegata ai lavori girovaghi, al vagabondaggio, una cosa così, Non definisco a livello amministrativo chi è uno zingaro, perché molti stati europei lo fanno agli inizi del Novecento, d'accordo? Non lo definisco, e quindi di fatto questo permette ai governi dell'Italia liberale di muoversi un po' come vogliono, cioè li intercetto, faccio un po' quello che voglio, la polizia a mano libera, perché tanto non devo pormi il problema, questa persona che fermo è chi è realmente, non vado a fare indagini genealogiche, non vado a fare tutto questo. Questo però non è un caso, cioè non è così fatto per la facciloneria italiana, fra virgolette, anche questo. Questo viene fatto perché, come vi ho detto, in un momento in cui c'è un passaggio continuo alla frontiera, appunto dire io non ho zingari, io in Italia non ho zingari italiani, non esiste questa possibilità che ci sia una persona di nazionalità italiana che appartenga a questa comunità, mi permette di mandare via anche quelli che sono nati in Italia, ma che vivono magari vicino alle frontiere, cioè lascia mano libera. E i governi liberali preferiscono questo rispetto a quello che fa anche la Germania o quello che fa la Francia soprattutto, perché poi pensiamo sempre alla Germania, ma in realtà se devo guardare le politiche anti-zingare, lo sguardo sulla Francia è molto, il paragone con la Francia è molto interessante. Quindi in questo sistema qui c'è questo modo di portare avanti la situazione e funziona fino a un certo punto, perché quando dopo la Prima Guerra Mondiale diventano italiane i territori ex asburgici, fra cui questo dove ci troviamo oggi, beh, questa politica entra un pochino in crisi, ma non del tutto. Entra un pochino in crisi perché si deve dare, cioè sia per i trattati di pace, sia per diciamo la legislazione dello Stato italiano per quanto riguarda il dare la cittadinanza appunto alle persone che vivono in questo territorio, succede che i Rom e i Sinti vengono ancora una volta, cioè, sono un problema, quindi a livello locale non si è i prefetti e quindi i sindaci e poi i podestà quando entra il fascismo non sono molto disponibili a dare loro la cittadinanza. Questo succede soprattutto nella Venezia Giulia ancora di più che non qui, e quindi tutto il discorso del Heimatrecht viene girato dalle autorità italiane, girato un po' anche manipolato in modo che il minor numero possibile abbiano la cittadinanza italiana. Quindi questo è già un momento di cambiamento, perché viene fuori un po' questo problema, un cambiamento rispetto a quello che faceva l'Italia, diciamo l'Italia liberale. Ci sono molti documenti su questo, sulla richiesta da parte loro di cittadinanza, perché viene legata, insomma, tutta questa questione. E quello che succede è che quindi non tutti, ma una parte dei Rom e Sinti delle nuove province di confine rimangono senza cittadinanza e senza documenti. Questo fa sì che da una parte vengano continuamente, come era già prima però, espulsi, questa volta sempre di nascosto ovviamente, però questa volta vengono rimandati indietro più velocemente ancora, perché dall'altra parte l'Austria, come il regno dei Serbi, Sloveni, Croati e poi il regno di Jugoslavia, appena queste persone dicono dove sono nate, chiaramente li rimandano in Italia, e quindi questo discorso diventa sempre più pesante. E diventa sempre più pesante, qui per esempio c'è un documento che potete vedere dell'archivio di Stato di Bolzano, dove appunto c'è la storia di una donna sinta di 50 anni che nel gennaio, con il figlio di 14 anni, nel gennaio del 1938 viene mandata di nascosto, accompagnata al valico di San Candido. Quindi lei è nata a Tolmino, in provincia di Gorizia, allora era provincia di Gorizia, oggi è Slovenia, passa di qua perché aveva dei collegamenti con i Sinti di questa zona, viene presa e viene accompagnata e lasciata, quindi a gennaio del 1938, sul confine perché entri in Austria. E la sua storia è molto particolare perché lei, c'è tutta la sua documentazione dal 1929 al 1938, 36, 38, tutte le volte che lei viene fermata gli viene data una cittadinanza diversa. Una volta jugoslavia, una volta austriaca, una volta italiana incerta, perché noi gli italiani definiscono incerta cittadinanza quando devono entrare in questo discorso, oppure senza cittadinanza. Questo è uno dei tanti casi, ci sono molti documenti sotto questo punto di vista. Allora cosa succede? A un certo momento il capo della polizia, e quindi sicuramente Mussolini era assolutamente d'accordo con lui, nel gennaio del 1938 vuole, diciamo, emette già a dicembre due circolari, poi a gennaio del 37 e a gennaio del 38 una circolare in cui dice è rivolta solo ai prefetti delle nuove province di confine e dice bisogna fermare, cioè dovete fermare tutti i rom e sinti che trovate, dobbiamo analizzare i dati a livello centrale e scegliere quali misure di polizia, a quali misure di polizia sottoporle. Allora, questo è un grafico fatto nel giugno, cioè questo è stato fatto dal Ministero degli Interni, dalla Divisione di Polizia, è del 17 giugno 1938, quindi ormai sono passati quasi sei mesi dalla circolare del gennaio del 1938, e qui abbiamo uno, ce ne sono tanti di dati, ma insomma questo era un pochino più, ho preso questo, era un pochino più completo. Qui vengono segnati non i fermati, i fermati sono più di 300 persone in tutte le nuove province di confine, ma qui vengono segnate le persone considerate più pericolose che sono sottoposte alla misura del confino di polizia, già molto usato dal regime fascista per oppositori, per una serie di categorie molto ampie di persone. E la particolarità, quindi non è una misura specifica per Rom e Sinti, era già una misura molto usata dal regime fascista, viene applicata ai Rom e Sinti, quindi della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia. E la particolarità, e qui si vede molto bene, che sono di più i congiunti, cioè siccome hanno famiglie molto numerose, contrariamente a quello che succede con gli altri confinati, viene data loro la, fra virgolette, possibilità di portare la famiglia, quindi c'è uno spostamento di popolazione e uno svuotamento di popolazione, proprio perché non parte la singola persona, il singolo confinato, quindi già si vede che questa misura assume una particolarità quando è applicata ai Rom e Sinti. E su, diciamo che nella provincia di Bolzano sono segnalate quattro donne che vengono mandate al confino. Sono prevalenti i dati su Pola e su Trieste, ma soprattutto su Pola. Pola, quindi l'Istria. Verrà la popolazione Rom e Sinta viene quasi tutta mandata in Sardegna, quindi il posto di confino per Pola e la Sardegna per i Rom di lì. Invece per le altre province è un po' più varia, per esempio sì, è la Sardegna, ma da Bolzano penso vengano mandate anche, c'è documentazione che vengono mandate in provincia di Matera, quindi in Basilicata, qualcun altro anche in Calabria. Sono mandati in luoghi isolati, molto poveri, è un'Italia molto più povera di quella che loro lasciano qua, diciamo. Teoricamente il confinato può anche lavorare, ma la situazione di povertà estrema non permette questo. Sono anche, come tutti i confinati hanno, diciamo, il regime fascista dà un minimo di aiuto economico per chi non ce l'ha, però questo minimo di aiuto economico diventa problematico per i Rom e Sinti perché hanno tanti figli a carico, quindi è ancora più drammatica la situazione che per gli altri confinati. E quindi questi insomma sono un po' i dati, e naturalmente con l'entrata in guerra la situazione peggiora per tutti quelli che diciamo che il regime individua come pericolosi. Uso questa parola che è un po' generica, fra l'altro è così nei documenti dell'epoca, perché essere pericoloso per la nazione assume molte sfumature, appositamente, cioè nel senso che così posso internare una grande quantità di persone, non è che stabilisco esattamente qual è la pericolosità, è un termine che può essere applicato a tantissime situazioni. Vengono quindi, chi è un pericolo per la nazione? Qui ho voluto mettere una foto d'epoca di Sinti Giostrai, quindi c'è una vecchia giostra, un vecchio carrozzone, e di fatto sono considerati pericolosi anche i Rom e Sinti. E allora, quando scoppia la guerra, ci sono tre circolari, una è poco prima della guerra, una è il giorno dopo lo scoppio della guerra, quindi insomma vuol dire che l'argomento era ben presente, e l'altra invece è del settembre del 1940. Sono tre circolari. La prima, devo dire, è scritta in maniera alquanto confusa. Secondo me il fascismo doveva ancora mettere a punto bene che cosa sarebbe successo ai Rom e Sinti con lo scoppio della guerra. Noi, diciamo, l'Italia entra in guerra il 10 giugno. E le altre invece, sia quella dell'11 giugno che dell'11 settembre, sono assai più strutturate e specifiche, diciamo, per quanto riguarda le misure di polizia, in particolare l'internamento. Quindi quella di giugno e quelle di settembre riguardano l'internamento dei Rom e dei Sinti. Allora, che cosa succede quindi con lo scoppio della guerra? Quelli stranieri teoricamente non devono, continuano a non entrare in Italia, anche se poi molti ne entrano, alcuni scappando anche da situazioni, diciamo, dei paesi vicini, situazioni molto pesanti dei paesi vicini. Poi ci sono, se comunque uno zingaro viene considerato pericoloso per la sicurezza della nazione, e di solito l'accusa è quella di attività antinazionali e di spionaggio, allora c'è il campo di concentramento. Il fascismo ha un sacco di campi di concentramento. E poi c'è questa categoria particolare, quelli di nazionalità italiana certa o presunta, e come vi dicevo prima, in questo modo posso anche mettere dentro quelli della Venezia Giulia Tridentina, la cui nazionalità non è del tutto chiara, quindi è una strana definizione, ma funziona, che conducono vita, soprattutto quelli che conducono vita girovaga, devono essere tutti rastrellati, quindi fermati, si deve guardare bene se hanno una residenza o non ce l'hanno, quindi questo quello il primo, come dire, la cosa su cui si focalizza in questo momento il fascismo. E se non sono registrati in alcun luogo, devono essere mandati in località di internamento. Quindi una cosa un po' diversa dal campo, vuol dire ci sono dei comuni, in questo caso il fascismo sceglie ogni provincia italiana dovrebbe avere un luogo, quindi un singolo comune o più comuni, che si chiama località di internamento, dove i Rom e i Sinti sono costretti a stare fermi. Quindi abbiamo delle persone che devono stare e possono muoversi nel giro di, può essere alcune strade, alcune piazze, oppure se il paese è molto piccolo, lo spazio del villaggio, del paese, insomma, ecco, una cosa di questo genere. E l'internamento in località non è applicato solo ai Rom e Sinti, in Italia viene applicata a tante altre categorie di persone, per esempio nel caso degli ebrei vengono mandati in località soprattutto donne con figli, perché viene ritenuta una misura un pochino meno dura del campo di concentramento. E questo ancora una volta per sottolineare che anche qui il fascismo non sceglie una legislazione specifica solo, quindi delle misure solo per Rom e Sinti, prende le misure che già sono applicate a tante altre categorie e le applica anche a loro. E questo è anche, insomma, una cosa da sottolineare. Però anche qui la particolarità è che l'internamento è un internamento di famiglie, cosa che per gli ebrei succede in parte in alcune circostanze, per i Rom e Sinti succede sempre. Quindi noi non abbiamo rarissimi casi in cui viene fermata una persona singola e mandata o in campo o in località di internamento. Qui sono le famiglie, perché li fermano mentre loro stanno girando con la famiglia. Quindi diciamo sono quelli che possono essere individuati più facilmente, tenuto conto che non abbiamo la categoria amministrativa, continuiamo a non averla neanche durante il fascismo. Quindi quelli che io fermo, che vedo, che riconosco, lo sono sicuramente, d'accordo? E allora però ho il problema di collocare tutta la famiglia. E sotto questo punto di vista il regime non è così ben organizzato, forse, come dire, non ha capito fino in fondo tutto questo, per cui i comuni si trovano con molti minori, quindi con tutta una serie di problematiche per la vita di queste persone, che non sono in grado di affrontare perché non hanno neanche i mezzi. E quindi diciamo che anche l'internamento per i Rom e Sinti, quindi non solo il confino, ma anche l'internamento diventa più pesante che per altre categorie di italiani che vengono mandati in luoghi simili, ecco. E allora c'è un po' un problema, così non è un problema, insomma, c'è una questione che ancora non è del tutto chiara: come mai non vengono, come dire, presi in considerazione, oppure non del tutto, i Rom, soprattutto sono Rom del Sud Italia, che hanno una residenza stabile, quindi i Rom e Sinti sedentari, non è chiaro, non è ancora chiarissimo, e ci vorrebbero delle ricerche più approfondite, ma per quello che viene fuori fino adesso, diciamo, il regime non punta l'occhio su di loro. Questo non vuol dire che fossero visti in maniera positiva in assoluto, vuol dire che si concentra, cioè, come dire, preferisce concentrarsi su quelli che rappresentavano un pericolo maggiore dal loro punto di vista, ovviamente, che era chi faceva una vita itinerante. Quindi questo discorso dell'itineranza, dello spostarsi, di non avere un luogo preciso dove potevano essere sempre rintracciati, questo effettivamente per il regime è il problema impellente, diciamo, ecco. Qui abbiamo alcuni dati, però insomma i dati non li faccio solo vedere, perché queste sono proprio le tabelle che fa la polizia. Allora, la circolare sull'internamento in località è dell'11 settembre. Qui abbiamo il primo resoconto, che però è un resoconto fatto il 14 di gennaio, quindi sono passati 4 mesi. Non ci sono altri resoconti definitivi, quindi poi si trovano dei dati, ma tutti scorporati, quindi quelli li lascio stare perché poi ci vogliono un'interpretazione particolare, insomma non vorrei annoiarvi troppo. Vi faccio vedere solo questa perché è una tabella che loro hanno già che è preparata da loro stessi, quindi dalla polizia. E vedete che loro fanno questa distinzione, quindi ci sono le città in cui vengono fermati, non ci sono le nuove province di confine, e poi bisogna appunto vedere perché. Vi dirò perché. Quindi ci sono zingari fermati, e poi c'è una distinzione lassù fra residenza e località di concentramento. Località di concentramento vuol dire località di internamento, diciamo, lo chiamano in questi due modi. Per cui cosa succede? Che vengono fermati, se si trova che hanno una residenza, o alcune volte un domicilio, vengono rimandati lì. Certo, saranno sotto controllo della polizia, però in una maniera non pesante, come invece coloro per cui non si trova, o perché non hanno documenti, per una serie di motivi, che invece hanno una forma di internamento, che è quello dell'internamento in località. E vabbè, poi ci sono i sussidiati, ma vabbè, insomma, senza stare troppo su questo. E quindi fermati sono, vabbè, sono quasi 900 persone nei primi 4 mesi. E in queste località di internamento non ci sono le province di confine. Perché? Perché nella circolare dell'11 settembre viene detto che comunque è meglio che nelle province di confine non ci siano località di internamento, proprio perché il confine era sempre visto come un luogo molto pericoloso da gestire, e per cui quelli fermati non solo nelle nuove province, ma quelli fermati anche nelle altre province di confine, che ne so, Varese piuttosto che Aosta, vengono mandati in altre regioni d'Italia. Quindi c'è proprio l'idea che il confine, questo è anche molto interessante, debba essere libero, fra virgolette, da zingari. In realtà abbiamo la città di Trieste, e vabbè, perché allora, con la geografia di allora, era un po' più indietro della linea di confine, però ce ne sono comunque molto pochi, perché la maggior parte poi vengono internati anche da lì. Allora, in realtà poi più avanti, quindi questo è di gennaio, quasi un anno dopo, viene aperta una località di internamento in Trentino, quindi abbiamo il paese di Casteltesino, dove sono state internate un'unica famiglia allargata di 14 persone, una famiglia di Sinti. E vabbè, insomma, questo quindi è le località di internamento. Queste sono le stesse località viste, diciamo, con una carta geografica, quindi con un ordine diverso. Però è abbastanza evidente che la maggior parte, penso anche così a una lettura veloce senza soffermarci troppo, si vede che la maggior parte sono nel centro-nord. E sono nel centro-nord perché qui ci sono perché nel centro-nord ci sono i Sinti, cioè la parte della popolazione che conduce vita itinerante. Quindi questa misura viene applicata soprattutto in questo tipo di situazione. E un po' diverso sono i campi di concentramento. Qui vi ho messo una foto tenete conto che il primo libro completo su il numero e i campi di concentramento del regime fascista è del 2004, quindi diciamo, ho aperto questo incontro dicendo quanto poco è stato fatto sulla ricerca delle persecuzioni di Rom e Sinti, però diciamo che la storiografia sul fascismo ci ha messo anche molto a lavorare sull'internamento. Quindi avere un testo completo come quello di Carlo Spartaco Capogreco solo nel 2004 è per forza che quelle sui Sinti e i Rom sono venuti ancora dopo, perché se non ho uno studio di base su tutta Italia, cioè su tutti gli internati, è difficile poi andare a trovare questa categoria che comunque il fascismo non mette in primo piano. E quindi, diciamo, è un ritardo un po' complessivo su questo. E il libro di Carlo di Capogreco fa anche menzione non solo dei campi del Ministero degli Interni per civili, ma anche, e vi ho messo una foto di Arber Hub, di quelli gestiti dall'esercito italiano, che erano i peggiori, dove la mortalità, sono veramente i campi dove la mortalità era molto molto alta, perché i campi per internati gestiti dal Ministero degli Interni, per carità, non erano una passeggiata, non vorrei essere fraintesa, ma se andiamo a vedere il livello di mortalità non era, come dire, particolarmente alto, mentre quelli dell'esercito sì, avevano delle situazioni veramente drammatiche, in particolare quello di Arbe, nell'isola, insomma, oggi Croazia. E allora, i Sinti e i Rom vengono mandati fondamentalmente in tre campi di concentramento. Cioè, all'inizio vengono mandati un po' qua e là, perché appunto il regime fascista ci mette un po' a focalizzarsi su di loro. Quindi i primi accusati di spionaggio e di attività antinazionale, fermati nell'estate del 1940, vengono mandati in posti diversi, ma adesso non li menziono perché diventa troppo specifico, mentre dal novembre 1940 si il fascismo man mano sceglie di mandarli in alcuni campi, e man mano che fa questa scelta sceglie di allontanare gli altri internati che c'erano già, cioè non nascono come campi solo per zingari, ok, sono campi dove c'erano ebrei, cinesi, a Tossicea c'erano cinesi, piuttosto che oppositori politici. Man mano che arrivano, per esempio a Boiano è molto chiaro, quando arrivano i Rom, sono Rom stranieri, che non possono più venire espulsi perché ormai c'è la guerra. Ci sono prigionieri politici e qualche ebreo. Man mano che aumentano il loro numero, gli altri vengono mandati in altri campi e rimangono solo Rom e Sinti. Nell'estate ci sono 66 Rom e Sinti e vengono spostati nel secondo campo individuato, che è quello di Agnone. Allora, perché vengono spostati? Questo è interessante, perché il campo di Boiano, sono sia Agnone che Boiano sono in Molise, a quel tempo erano tutte e due in provincia di Campobasso, serve quello stabilimento, quindi il campo di concentramento italiano è un po' diverso dall'immaginario che noi abbiamo, cioè non ha molti punti in comune con i campi di sterminio di lavoro nazisti, ok? Quindi nel primo caso erano dei fabbricati per la lavorazione del tabacco, e siccome serve alla ditta, allora gli internati poi vengono mandati via, vengono mandati qua, vengono mandati ad Agnone. Agnone invece è un convento, quindi è un convento riadattato a campo di concentramento. Anche qui erano presenti ebrei e prigionieri e oppositori politici, però qui non c'è la compresenza per un primo periodo. Qui quando arrivano i Rom spostati da Boiano, tutti gli altri sono stati già mandati via, e questo è anche interessante, nel senso che comunque vengono visti come un gruppo così particolare che non li si fa stare insieme a tutti gli altri, e questo anche meriterebbe una riflessione. E allora, qui la presenza massima è di 146 persone, qua il mio conto di 176 internati Rom e Sinti, perché ho preso in considerazione tutti quelli che ci passano anche per un periodo limitato, perché come sempre nell'internamento possono anche venire spostati da una parte o dall'altra, quindi complessivamente c'è questo numero di persone che viene internato in questo campo, anche se non sempre tutti contemporaneamente presenti. Abbiamo infine il terzo campo di concentramento per Rom e Sinti. Qui ci arrivano però solo un particolare gruppo, cioè questi sono solo sono Rom catturati nella provincia di Lubiana. Quindi qui siamo quando l'Italia invade il regno di Jugoslavia con la Germania e l'Ungheria. E, è una cosa su cui bisognerebbe ancora lavorare, perché di Rom in Slovenia ce n'erano come in Croazia, ce n'erano moltissimi, quindi è una delle località dove erano più concentrati, e però abbiamo questo numero che è di 118 persone, vengono portati in due gruppi, rimangono qui, e su tutti gli altri che rimangono là bisognerebbe indagare meglio sul perché. Io ho trovato un po' di documenti che a un certo momento dicono che qui nei campi italiani non c'è più posto, cioè che non possono essere mandati tutti quelli che vengono fermati di là, non possono essere mandati qua, per esempio, però questa è un'ipotesi. Allora, sto quasi per arrivare alla fine, che cosa succede? Perché vedete che c'è sempre questa data, qui c'è la data del 27 settembre come momento in cui viene il campo non esiste più, e qui c'è la data del 6 ottobre 1943. Quindi che cosa succede dopo? Cioè cosa succede quando appunto c'è la firma dell'armistizio, quindi la resa dell'Italia alle potenze alleate? E appunto la sorte di queste persone, qui vabbè una mappa che ho trovato, Allora, se come nel caso di Agnone e Tossicia, allora sono due campi che si trovano diciamo sulla linea di demarcazione fra dove stanno salendo gli alleati e dove ci sono le truppe tedesche. Possiamo dire fortunatamente riescono ad allontanarsi dai due campi prima di essere intercettati. Anzi, a dire la verità, ad Agnone, io ho trovato diversi documenti su questo, sembra che alla fine siano proprio i tedeschi ad aprire le porte, stavano cercando qualcos'altro ovviamente, e in un momento in cui dovevano costruire una delle linee difensive proprio vicino ad Agnone, non sono così interessati a catturarli, d'accordo? Quindi loro riescono a scappare. Invece a Tossicia sono loro che scappano di notte e alcuni di loro verranno intercettati mentre scappano verso nord, ma fortunatamente vengono rimandati in Abruzzo, cioè non sono mandati verso nord, ma sono rimandati indietro, perché in realtà, contrariamente al Molise che viene liberato, diciamo, l'Abruzzo rimane sotto la Repubblica Sociale Italiana fino alla primavera del 1944, e quindi c'è tutto questo periodo molto difficile, per cui vengono rimandati indietro e non vengono però messi sui famosi trasporti, diciamo. Invece, per quanto riguarda le località di internamento, devo dire che vengono quasi tutte chiuse prima dell'arrivo dell'esercito tedesco. Vengono chiuse perché non c'è più letteralmente cibo. In Italia l'inverno fra il 1942 e il 43 è particolarmente drammatico, non c'è più cibo per nessuno, la situazione è già catastrofica, e quindi cosa succede? Che molti podestà, che erano i podestà che dovevano gestire la presenza dei Rom e Sinti nei comuni, e letteralmente non hanno più nulla da dare da mangiare né a quelli non internati né agli internati, e quindi molto spesso gli internati possono andare via, cioè i Rom e Sinti vanno via, scappano, ma non è una fuga di massa, cioè è una fuga che avviene centellinata, piano piano, cioè a un certo momento non c'è più niente da fare, tutti lo capiscono e le persone si allontanano. E ne rimangono in funzione solo un paio, fra cui Casteltesino. Casteltesino rimane fino al dicembre del 1944. E quindi in questa situazione, insomma, di sbando e di situazione molto molto complessa, questo è un po' quello che succede ai Rom e Sinti internati. Abbiamo dei deportati, sì, nel senso, anche qui la ricerca è solo all'inizio. Dopo molti anni sono stati trovati, soprattutto negli archivi della Venezia Giulia, devo dire, elenchi di persone, fra cui Rom e Sinti, che vengono fermati dalla polizia, portati nel carcere locale, il carcere del Coroneo o il carcere di Udine, e poi vengono fatti salire sui trasporti per i campi nazisti. È una ricerca molto difficile questo su Rom e Sinti, perché il fatto che il fascismo non avesse dato una definizione esatta a livello amministrativo, succede che non ci sono, contrariamente a quello che avviene con gli ebrei in Italia, dove la questura aveva la lista della popolazione ebraica, quindi chiunque arrivasse dai nazisti piuttosto che da un altro trovava questo materiale. Questo, per fortuna loro, non esiste per i Rom e per i Sinti, perché il regime non aveva fatto questo tipo di scelta. Per un po' di motivi ve li ho anche spiegati, cioè voleva anche avere mano libera, non voleva entrare in questo argomento perché esistono anche degli zingari italiani, cioè questo non è mai stato ben sviscerato, ma io penso che sia un po' il centro di questa, della particolarità del regime fascista verso Rom e Sinti. Comunque, ancora una volta, conoscendo i cognomi, all'interno di queste liste di persone arrestate e deportate emergono anche cognomi di Rom e Sinti. Questo discorso dei cognomi ci vuole effettivamente una certa conoscenza, perché in alcune regioni d'Italia, allora, se io per esempio faccio ricerca in Emilia, conosco i cognomi dei sinti emiliani, però non sempre sono diversi dagli altri emiliani, possono essere in alcuni casi particolari, in altre famiglie, perché sempre ci sono stati matrimoni misti, non sono diversi, sono gli stessi. Quindi per questo trovarli nel momento in cui l'Italia non aveva queste liste è un lavoro molto lungo, e sicuramente i dati che io ho trovato sono solo una parte, cioè ce ne potranno essere decisamente di più. Nel caso in cui ho individuato i cognomi, ma ci sono anche altri studiosi che hanno lavorato su questo, ovviamente abbiamo la possibilità con l'archivio di Bad Arolsheim in Germania, dove vengono raccolti tutti i dati di tutti coloro che sono stati vittime del nazionalsocialismo, si può tentare di ricostruire la strada di queste persone che partono dall'Italia, in particolare partono tutti dalla Venezia Giulia, partono tutti dalla Venezia Giulia, che era sotto il Reich, vengono fermati dalla SIPO, quindi vengono tutti fermati dalla polizia tedesca. E questo per quanto riguarda la Venezia Giulia. Per quanto riguarda il campo di Grieste di Bolzano, vi dico una cosa che la maggior parte di voi conosce molto bene: c'è questa testimonianza di questa partigiana, Laura Conti, che dice: io ho visto delle donne rom con i loro bambini dentro il campo, però sapete benissimo che tutti i documenti sono stati distrutti dall'SS prima che il campo chiudesse, e quindi noi non sappiamo i nomi, non sappiamo quanti, però c'è questa traccia, ecco, c'è questa traccia importante che non... Quindi cosa succede? Che spesso ci sono delle testimonianze, non sempre ci sono i documenti corrispondenti, però insomma vanno raccolte tutte le testimonianze, anche quando ovviamente non ci sono i documenti, perché in questo caso sono stati fatti sparire, nel senso non solo quelli dei sinti di Roma, ovviamente di tutti. E vabbè, comunque il comune di Bolzano con l'associazione Nevodrom ha anche comunque messo questa targa in ricordo di questo passaggio di Roma e sinti, pur che non è documentato nel muro di Via Resia del campo. E allora sono arrivata, per vostra fortuna, alle conclusioni, e dunque nelle conclusioni non metto numeri, un po' ve li ho già detti prima, ma perché vorrei un po' fare un'altra riflessione. Allora, quello che, come vi ho detto all'inizio, è certo, mi ha colpito il fatto che per tanti anni queste ricerche sono state rimaste marginali, d'accordo? Ce ne sono poche e sono rimaste marginali. E la riflessione che ho fatto è proprio questo: è bastato che non ci fosse una categoria amministrativa chiara e non ci fosse una legislazione ad hoc, perché noi non abbiamo una legislazione contro Rom e Sinti, abbiamo molte circolari di polizia contro Rom e Sinti, che è una cosa un po' diversa. Quindi è bastato questo perché questa persecuzione fosse messa totalmente in ombra, cioè fosse messa da parte, non venisse fuori per tantissimo tempo. In effetti questa... questa non chiara definizione della categoria è continuata anche dopo in Italia. Quindi in Italia, finita la guerra, gli zingari, fra virgolette, sono diventati nomadi, cioè sono stati chiamati nomadi, è cambiato il termine, ma è lo stesso rimasto un termine ugualmente poco definito, cioè non è che io vado a vedere allora chi è un nomade, come faccio io a definire chi è. Certo, le persone si autopresentano, si nominano, però se io non voglio più essere di questa categoria, e questo che mi interessa come ragionamento, posso uscire o non posso uscire D'accordo? Se ho una categoria basata sulla genealogia, io non posso uscire. Se ho una categoria mista, come quella del fascismo, in alcune occasioni posso uscire. Non è che sia semplice, però è una distinzione che va fatta. Nel dopoguerra comincia a venire usato il termine nomadi, da cui campo nomadi, per cui questo termine poi, come dire, prende anche uno spazio nella vita pubblica italiana sempre più vasto. È interessante, anche nell'Italia repubblicana questa categoria, la categoria nomadi funziona, ci sono leggi regionali sulla tutela della popolazione nomade, si fanno campi nomadi, quindi c'è, non so, la scolarizzazione dei bambini nomadi, tutte queste cose qua, ma anche qui è una categoria che rimane indefinita e la mia riflessione conclusiva è proprio questa. Certo, è meno rigida, questa categoria è meno rigida di quella basata sulla genealogia, però per certi aspetti abbiamo potuto e l'abbiamo usata, abbiamo continuato a usarla anche dopo la fine del fascismo, perché essendo così, diciamo, essendo non ben strutturata, io la posso sempre usare per qualsiasi problema, ho un problema di ordine pubblico, ho un problema che succede qualcosa, eccetera. Richiamo questa idea di nomadi e zingari e lo posso fare anche a distanza di molti anni dalla persecuzione fascista senza farmi troppi problemi, quindi giornalisti piuttosto che opinione pubblica, cioè si può continuare in Italia, si continua ad usare, anch'io ho usato questo termine, ma vi ho detto, se parlo di documenti non posso non usarlo perché sennò entro in contraddizione, non posso dire che nei documenti c'era scritto Roma e Sinti perché il fascismo manco sapeva la distinzione, ovviamente, però sono cose che si continuano ad usare, che ci sono, quindi è come se questa indeterminatezza giuridica faccia sì che continua a funzionare questa categoria, e anche questo secondo me ha impedito veramente una riflessione sulla persecuzione durante il fascismo, perché in Germania questa categoria non la potrei più usare, per esempio, non la si usa più, non la si può più usare, d'accordo? Perché gli eventi, non solo perché lì gli eventi sono stati più tragici, ok? Ma anche perché c'è stato un maggior lavoro di analisi di quello che è successo, quindi molta più ricerca, quindi uno, se usa quel termine, ha una consapevolezza del peso storico di quella categoria molto diversa di quella che abbiamo in Italia, perché non ne abbiamo ancora, e quindi io insomma penso che sia molto, molto collegato, cioè che questo filo rosso dall'Italia liberale all'Italia fascista all'Italia repubblicana in un certo modo sia rimasto, cioè questa indeterminatezza della categoria mi permette di continuare a pensare queste persone come non del tutto cittadini, cioè non li considero realmente cittadini come tutti gli altri, proprio perché li posso categorizzare, seppur in una maniera non amministrativamente definita, ma funziona, cioè sia zingari che nomadi continuano a funzionare in Italia, e io su questo mi fermerei qua, sperando che magari qualche domanda o insomma qualche dubbio l'abbia sollevato. Ti ringrazio moltissimo Paola per questa relazione molto densa di informazioni, di dettagli. No, ma come dire, che da un lato molto ricca di informazioni, ma dall'altro anche, come dire, capace di tratteggiare un quadro di insieme molto complesso in modo dettagliato e ampio. Mi sembra che sei riuscita a dare molto bene l'idea, come dire, di un problema politico, di una questione politica che la cui ombra lunga continua fino, si estende fino ai nostri giorni. Io passerei senz'altro la parola a chi di voi vuole porre qualche domanda o fare qualche osservazione. Posso dare a lei? Questa indeterminatezza nella categoria che tu hai descritto durante il fascismo, questo mi sembra che potrebbe anche avere avuto dei lati, o ti chiedo, ha avuto dei lati anche positivi, soprattutto poi con l'occupazione tedesca, non essendo così chiari nelle categorie, forse c'era anche meno deportazione, non lo so, ti chiedo. Allora sì, sicuramente diciamo sul fascismo potrei dire che questa categoria ha comunque funzionato per chi conduceva vita girovaga, quindi gli itineranti, quindi anche senza una categoria loro effettivamente venivano fermati, confino, deportazioni nel sud Italia, insomma diciamo ha giocato, se vuoi, a favore della popolazione rom e sinta sedentaria questa indeterminatezza. Nel periodo dell'occupazione tedesca sì, è stato involontariamente, ovviamente ci tengo a sottolinearlo, ha dato lo, possiamo dire che a questo si deve attribuire il fatto che la deportazione verso i campi nazisti di rom e sinti dall'Italia, ma anche dalle province sotto il Reich, diciamo, non abbiano raggiunto i livelli di altri stati, e lasciando perdere ovviamente la Germania, possiamo pensare alla Francia, dove del nord della Francia, la zona di Pas de Calais, questa zona qui sotto il diretto controllo della Germania nazista, da lì invece sono partiti con convogli dove a convogli di ebrei, convogli di ebrei si univano anche convogli di rom e sinti francesi, e questo è documentato oggi. Noi abbiamo questa deportazione, magari i numeri potrebbero sicuramente essere maggiori perché vi ho spiegato la difficoltà della ricerca, però una cosa è certa, non ci furono treni o vagoni solo di rom e sinti, quindi quando i rom e sinti vengono deportati dall'Italia, dalla Venezia Giulia per esempio, sono spesso indicati come prigionieri politici, perché siccome da lì partono prigionieri politici o ebrei, a tutti è chiaro che non sono ebrei perché non sono nelle liste delle questure italiane, e quindi molto spesso la loro dizione è prigionieri politici. Addirittura, proprio perché quando allora la polizia tedesca li riconosce, li ferma, ok, quando deve fare la lista di trasporto, guardando la parte la legislazione italiana non trova, allora comunque li vogliono mandare, però la dizione è un po' diversa. Solo troviamo tre donne nel gennaio del 1945 catturate in provincia di Udine, tre rom, loro vengono messe con prigioniere politiche. Infatti è una partigiana, Rosa Cantoni, che scrive la loro storia quando tornano, si salvano per fortuna, vanno prima a Ravensbrück e poi a Bergen-Belsen. È lei che scrive la loro storia, che le contatta, quindi anche questa è una cosa interessante. E loro sono le uniche tre, probabilmente ormai diciamo la dizione tedesca evidentemente entrava anche nelle carceri italiane quando prendevano questi prigionieri, e loro sono chiamate Zigeunerin in tedesco, scuserete la mia pronuncia. E hanno questa classifica, nell'elenco c'è scritto nazionalità, politica e poi anche Zigeuner, quindi è come se a un certo momento ci fossero i tre termini tutti insieme, ma si tratta delle ultime tre deportate. All'inizio è molto più confusa la cosa. Le volevo chiedere due cose. Innanzitutto, il termine zingari è un termine generico, è un termine che è stato superato, che ha un valore storico, o è soltanto un'accezione dispregiativa? E se ancora oggi noi possiamo parlare di zingari, oppure se siamo andati oltre? E poi la seconda domanda, lei ha parlato di queste località dove queste persone venivano portate, e poi anche di questi campi di concentramento, che sono qualcosa di diverso dall'immaginario collettivo di quello che è un campo di concentramento. La mia domanda è questa: quando venivano portati sia nelle località di internamento che in questi campi, vivevano con un sussidio, lei ha detto, dello Stato minimo, E come vivevano? Cioè, era data loro la possibilità di lavorare? Vivevano relegati in questi edifici, in questi luoghi? I bambini venivano scolarizzati? O era proprio una forma di isolamento, quasi totale o totale? Dunque sì, grazie per la domanda, un po' complessa. La prima domanda, direi che dunque c'è un grande dibattito sull'uso di questo termine. Io stessa lo uso fra virgolette, diciamo, però come storica non posso non usarlo. I diretti interessati non lo vogliono più sentire questo termine, ha ragione. Però e in Germania è assolutamente impronunciabile, diciamo, ecco. In Francia è anche interessante vedere quello che è successo dopo. Quindi in Francia dopo vengono chiamati gens de voyage, quindi gente del viaggio. In Italia dopo si passa alla categoria nomadi. Quindi non entro nel discorso politico delle associazioni, ci vorrebbe un altro tempo e un altro luogo, però quello che a me interessa è vedere la categoria, come viene costruita, quando cambia, come cambia, che cosa comprende dal punto di vista delle istituzioni. Quindi io in questo senso continuo ad usarlo. Personalmente poi quando parlo non lo uso più, cioè quando parlo al di là dei documenti che io analizzo non lo uso più, per rispetto di questa richiesta che viene fatta dalle persone in questione, ecco. Poi per quanto riguarda le località e i campi di internamento, dunque nelle località di internamento non c'era una separazione fisica netta con la popolazione locale, perché come gli altri internati in località, questo era anche per gli ebrei, vivevano o in caseggiati disponibili o abbandonati. Poi lì dipende se una persona, se un internato aveva un proprio reddito, cioè se aveva soldi poteva anche affittarsi una casa decente. Questo non è il caso dei Rom e dei Sinti, purtroppo, quindi loro alcune volte hanno il loro carro, la loro carovana in legno, rimane il posto dove stanno fermi in condizioni disagiate, perché poi senza una manutenzione adeguata ovviamente questa casa si distrugge. Altre volte vengono messi in caseggiati abbandonati che trova il comune stesso, fra l'altro, che prende poi una parte di questo sussidio dello Stato per pagare i proprietari di solito sono vecchie case di campagna semiabbandonate. Quindi le situazioni possono essere davvero molto varie. Allora, nell'internamento in località non c'è una separazione fisica fra le persone. E poi nel caso dei Rom e Sinti ancora meno lo potrebbe essere, perché è grandissima la quantità di bambini, e quindi i bambini, io ho raccolto diverse interviste, per esempio a Prignano sulla Secchia, giocano nelle strade del paese. Ma questo non voglio mai che passi come sminuire quello che è successo. È comunque una forma di privazione della libertà, e soprattutto le persone non hanno abbastanza da mangiare. Questo viene fuori in tutti i racconti, in maniera drammatica. Quindi prendono le bucce di patate, gli scarti degli altri e mangiano. Quindi questo succede anche nelle località di internamento. Nei campi, certo, invece c'è una separazione fisica, anche se questi campi di concentramento italiani, non solo quelli per gli zingari, molto spesso in realtà, a parte Ferramonti di Tarsia e qualche altro campo, non sono baraccamenti come noi li immaginiamo, non sono costruiti solo per loro, cioè era già qualcosa che esisteva che viene riadattato, d'accordo? Quindi lì dipende da dove si trova. L'isolamento è totale in alcuni campi di concentramento, in altri meno, perché dipende dove si trova la struttura che viene riconvertita in molti casi in campo di concentramento. Però il campo di concentramento ha una grossa diversità, c'è una parte degli agenti di polizia o in molti casi carabinieri che hanno il compito di controllare, stanno sempre lì, come c'è un direttore del campo di concentramento. Nella località i comuni scelti sono tutti comuni che hanno una caserma dei carabinieri, quindi c'è l'appello due volte al giorno, ma il carabiniere non sta, cioè fa tutto il resto del suo lavoro, non sta fisicamente sempre a guardare loro. E chi gestisce anche economicamente, amministrativamente l'internamento in località è il podestà. d'accordo? Quindi non c'è un direttore del campo di concentramento come nei campi di concentramento, e questo è una questo fa una differenza ovviamente nella vita degli internati, certo, però la fame rimane. E questo rimane in tutte le testimonianze, in tutti i racconti e in tutti i documenti. A volte ci sono anche i direttori del campo di concentramento che dicono: dovete mandare più da mangiare, perché qui con i bambini, perché il sussidio dei bambini quasi non viene preso in considerazione, questo è il problema, sono solo i rom e sinti che hanno tutti questi bambini dentro il campo di concentramento, nascono dentro il campo di concentramento, e lì diciamo il sussidio pensato per l'internato maschio o femmina separatamente non è adatto a questo tipo di situazione, quindi la carenza di cibo c'è. Qualche altra domanda? È stato molto interessante, la ringrazio. Io volevo chiedere, tra i campi che lei ha citato, non ha citato quello del Ferrarese di Berra? C'è un motivo? Ha avuto un destino diverso rispetto agli altri? Perché Berra non... Allora, forse ho fatto accenno a un certo punto di quanto sia stata un po' complicata la ricerca nel caso delle persecuzioni dei Rom e Sinti. Allora, il problema di Berra, dove ci sono diversi documenti, è che non è un campo di concentramento, è una località di internamento, e come tale funzionava come ho descritto adesso con la domanda che mi ha fatto la signora precedentemente a lei. Allora, è una località di internamento, le località di internamento sono più di 60, io ho fatto vedere la slide e non potevo entrare perché sennò voi scappavate tutti dopo che ne nominavo 60. Diciamo, Berra di Ferrara è comunque importante perché... importante, è un luogo significativo perché lì vengono mandati delle famiglie di Rom croati entrati in Italia già negli anni 30, 20 e 30, sono i Goman, Bogdan, ed è una storia molto interessante su cui ho pubblicato un articolo in inglese. Loro fanno documenti falsi, allora loro vogliono vivere in Italia prima del fascismo, non c'entra il fascismo, non possono vivere in Italia per quello che vi ho detto prima, cioè nessun Rom straniero può entrare in Italia, tantomeno può chiedere la cittadinanza italiana, ovviamente, ma questo già dall'Italia liberale, non dobbiamo aspettare il fascismo, Quindi loro emigrano perché lavorano. Io ho trovato anche i luoghi di origine a nord di Zagabria. Emigrano, non entrano in maniera più o meno clandestina, ce la fanno. Quando sono in Italia capiscono che però non c'è possibilità di avere qui una vita, vanno nelle nuove province di confine e tramite tutto un procedimento che ora non sto qui a spiegare, fanno dei documenti falsi e quindi si presentano come cittadini italiani. Quando vengono fermati, dopo l'11 settembre, vengono mandati a Berra di Ferrara, perché anche se hanno diciamo cognomi slavi, questo non era comune nelle nuove province, come qua avere ovviamente cognomi tedeschi, quindi vengono mandati lì perché si pensa che siano cittadini italiani. Rom e quindi internati. Dopo che cosa succede? La polizia però ha dei sospetti, comunque fa delle indagini e si scopre che questa famiglia ha diverse ramificazioni, è una famiglia molto grande, ha diverse ramificazioni. Una parte della famiglia è anche qui in provincia di Bolzano, un'altra parte è in provincia di Pisa, sono sparsi in tutta Italia e la polizia italiana riesce a capire come hanno fatto ad avere questi documenti falsi. Quando lo scopre, li manda in campo di concentramento, quindi da Berra di Ferrara, per questo è un pochino diciamo più famosa di altre località, vengono mandati sia prima a Boiano e poi ad Agnone. La famiglia che viveva in provincia di Bolzano invece riesce a rimanere qua per un periodo, ed è una storia che sto ancora indagando come mai. Prima di tutto la comprano, adesso lo dico qui, ma così è una cosa un po' particolare, devo ancora indagare, addirittura comprano casa, e comprano casa da una famiglia madrelingua tedesca che per l'opzione va via. quindi probabilmente riescono ad entrare in questa situazione e comprare casa, probabilmente immagino che fosse relativamente più facile in questo modo, non so, ecco, questa è una storia regionale che voi conoscete meglio di me, e siccome hanno la casa, anche se sono sotto l'attenzione della polizia che li controlla per molto tempo, non vengono mandati in campo di concentramento. Questo, per questo dicevo, c'è questa categorizzazione, rimane appunto adattabile a qualsiasi situazione. Li vogliono mandare, cioè c'è l'intenzione, non è che li si guarda così come se fossero persone che non appartengono a questa categoria, ma si aspetta. Si aspetta a vedere come vanno le cose, e questo li salva, ovviamente. Però vanno via loro stessi, vanno via loro stessi dopo un certo momento, per fortuna. Altre domande? Io volevo farti una domanda, spero piccola. Quando mostravi la circolare del settembre del 40, mi ha stupito, tu stessa la definivi piuttosto confusa, mi ha stupito questa oscillazione tra allusioni, diciamo, razziali, ma anche quella che mi sembra una connotazione chiaramente politica, quando si dice, si parla dell'attitudine a commettere azioni o la possibilità di commettere azioni antinazionali, mi sembra quasi la descrizione di un gruppo socialista, come dire, no? Cioè nel senso mi sembra che venga in qualche modo, cosa che mi ha stupito, anche riconosciuta un potenziale eversivo dal punto di vista politico. È questa una sorta di scusa per attenzionare, oppure effettivamente, cosa che venivano, di cui venivano accusati anche gli ebrei, no? di essere tendenzialmente internazionalisti e quindi socialisti? È lo stesso motivo, sostanzialmente? È qualcosa di molto simile. Hai notato questa cosa molto giusta. Ti dirò che ci sono altre circolari, per esempio quella del 1928, che appunto non potevo citare tutto, in cui vengono chiaramente accusati di essere al servizio dell'Internazionale Comunista e di portare documenti qua in Italia. Non che fossero attivi, nel senso non vengono definiti comunisti loro, ma dicono vengono pagati, quindi l'idea che lo zingaro fa qualcosa solo se è pagato, vengono pagati per portare stampa clandestina, cose di questo genere. Quindi è un'accusa che ritorna molto più forte che non in questa circolare in tutto il periodo fascista. E guarda, sì, naturalmente non, in tutta la documentazione non è mai stato trovato, io non ho mai trovato traccia né di questa attività né di attività antinazionali o cose di questo genere. E io penso che faccia proprio parte dell'immaginario su di loro, cioè quello che preoccupava di più il regime in un certo periodo, qualsiasi cosa preoccupasse di più il regime fascista, quello poteva comunque essere imputato a Rom e Sinti, proprio per questa categorizzazione non di tipo così chiaro o genealogico. Ci sono le ultime circolari del 1943, quando ormai la situazione per l'Italia, cioè del marzo del 43, quindi era già drammatica, in cui dice, sempre per la Venezia, c'è una circolare riferita alla Venezia Giulia, cioè per i Rom della Venezia Giulia, dice: non possiamo tollerare la presenza di queste persone, ormai non ce n'erano più perché fra Confino, cioè tutto quello che era successo, non possiamo tollerarlo perché danno ospitalità a sabotatori e ribelli. Allora, sabotatori e ribelli erano le due parole che il fascismo usava contro i partigiani titini, e quindi loro prendono queste parole e dicono anche loro possono nascondere nei loro carrozzoni questo tipo di persone. E tenuto conto che in Slovenia, questo è un paragrafo del mio libro dedicato a questa tristissima vicenda, in Slovenia sì, purtroppo i Rom venivano invece accusati, quindi proprio per concludere, alcuni Rom, noi abbiamo dei documenti che ormai lo dimostrano, con delle stragi di alcune decine di persone, vengono accusati invece di essere spie per gli italiani e vengono uccisi dai partigiani jugoslavi. Quindi questo è molto significativo, nel senso, queste persone non hanno spazio da nessuna parte, cioè questa indeterminatezza fa sì che loro vengano accusati di qualsiasi cosa, ma sia da un lato che dall'altro della frontiera, e in questo senso non hanno via di scampo, quindi sono stati uccisi da una parte e dall'altra. Ti ringrazio, Paola, per questa risposta. Se non ci sono altre domande o osservazioni, ringrazio di nuovo di cuore la relatrice Paola Trevisan per questa bella relazione, ringrazio la biblioteca Claudia Augusta, ringrazio voi per la vostra attenzione, le domande e la discussione. Vi ricordo solamente, prima di lasciarvi andare, l'ultima tappa di questo ciclo di conferenze, che sarà lunedì prossimo alle 7:30 al Film Club di Bolzano, dove ci sarà la proiezione dell'ultimo film di Giorgio Diritti, Lubo, che parla, insomma, è una storia di fantasia però basata su fatti storici reali, no? Quindi fa riferimento alla sottrazione di bambini appartenenti alle famiglie del gruppo nomade degli Yenish, che venivano sottratti per poi essere adottati o portati in istituti, e questa è una pratica che in Svizzera andò avanti dalla fine degli anni 30 fino all'inizio degli anni 70, quindi una storia lunga da un lato e anche lungamente dimenticata. Dopo la proiezione ci sarà una tavola rotonda, una discussione del film con Paola Trevisan, che verrà a trovarci anche lunedì prossimo, Tommaso Iori e Adina Guarnieri. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.